nelle puntate precedenti. Qui si narrano le mirabolanti peripezie della scuola di musica e dell'uomo di ferro che ne guidò il destino. 12 mesi or sono, all'alba della fatale sciagura, allorquando il globo terraqueo ammantato veniva da una coltre di sgomento, l'uomo di ferro di oro e porpora tinto atterrava sulla loggia del nostro, nascosto, atterrito, lui come la maggior parte dei comuni mortali, e con meccanico verbo intimava di assumersi le sue responsabilità nei confronti della comunità, la scuola di musica. Ridestato da un autarassico torpore, il nostro, al par dell'Alighieri, veniva traghettato attraverso un mondo di progresso ed innovazione tecnologica, volta all'ostinata sopravvivenza della scuola di musica, nonostante cupi siano i tempi ed infausti. La galassia Giamulosa e la nebulosa Reaper, in vero è sulla terraferma, non in absenzia sed in presenzia, che il fato attende il nostro manipolo, al varco, nell'ardimentosa tenzone con l'algida realtà dell'insegnamento distanziato. Rebus Sixtantibus, la scuola patisce una ripartizione in fazioni, esse portano i nomi di fieri popoli e con il radio ricevitore come esclusivo mezzo di espressione, megafono per il loro spaurito pensiero. Non più un saggio di fine anno, non più un balletto. Al nostro farraginoso manipolo altro non resta che far di necessità virtù, rimboccarsi le maniche e con rinnovato piglio affrontare l'anno nuovo sprezzante del periglio, volgendo la prua verso orizzonti di vana, vana gloria. Bentornati su Radio Forte, 100 Celle Avengers, puntata numero 12. Bentornato Iron Man, amico di mille avventure. Bentornati agli ascoltatori. Vogliamo addirittura dire che giorno è? Dici che porta sfiga? Dai, mi piaceva quell'intro. Oggi è il 4 febbraio 2021, va in onda 100 Celle Avengers. Ah, senti com'è professionale Alexa. Oggi 4 febbraio, cari devices, parliamo di musica da musical. Eh sì, oggi esploriamo il mondo dei musical, una forma espressiva che mette insieme musica, recitazione, danza e... Come Maria! No vabbè, prima che mi rovinate anche questo con le vostre cacate, è bene mettere in chiaro che qui si va con ordine e si parla di veri musical. Non capisco. Ma tu lo sai quanti generi, sottomezze specie, deforme artistiche passano sotto la definizione di musical? No. E pensi che noi non le esploriamo tutte in una lunga disamina di musica da musical? Non credo. E fai bene, perché in un'ora riesco appena a darti un'idea, a te che sei un uomo dell'atta poi, di cosa è il musical, cosa evoca, cosa racconta, i soliti ricordi che io, profano di tutto, associo al musical. Aiuto ancora l'infanzia. Ma che voi dico a fa poi a voi? Comunque, a proposito di uomo di latta, abbiamo già parlato di Oz e della favola degli Ukulengers, no? Un chiaro caso di plagio. Come dici, Cortana? Suonatori di ukulele che hanno rubato una famosa melodia del 39 per farne una favola loro, la favola degli Ukulengers. Grazie, Cortana. Il tuo interesse per il diritto d'autore spicca sempre più. Dovresti fare una rubrica a parte. Comunque sì, volendo seguire l'ordine cronologico, questo mi sa che è il più vecchio musical che ricordi. In realtà le prime forme sono risalenti a molto prima, se ci pensi. Mettere insieme orchestra, cantanti e danzatori era una cosa già fatta, in lungo e in largo, dalla lirica. Ma noi sempre in ora ci avemo, quindi... I generi di musical esistenti sono il Broadway musical, il cabaret musical, il concept musical, il musical nella più classica accezione di Broadway, con una trama accompagnata da recitazione, canto e ballo, il bio musical, il dance musical, il movie musical, il jukebox musical, musical che usa come colonna sonora i pezzi celebri di cantanti del passato. Il Backstage Musical racconta una situazione di teatro nel teatro con un cast che prova uno show meta musical. Stop! Ho un'idea! Alexa, Iron Man. Che succede? Soltanto adesso come un fulmine. Non lo so. Mi fulmina una fulminante idea. Cosa? Che noi potremmo delle nostre noiose vicende fare una vincente musical. Non è possibile. E tu, mia cara, troveresti tutte le curiosità che nessuno sa sui musical che preferisco. E tu, vocione senza sentimenti, tu sarai la vera grande attrazione di quest'opera. Un genere innovativo e fresco. Ma io non capisco. Sì! Ecco! Ora canta! Canta! Diritti d'autore? Non preoccuparti, Cortana, abbiamo i diritti di scimmiottamento. Questa è un'opera terza, per conto quarti, se la dividiamo a quinti, e la musica, pensavo questa qua. Vorrei fare una cosa, ma non so come riuscirci senza di voi. Proporrò questa cosa agli altri e vedrete che funzionerà. Funzionerà. Ennesima complicazione. Poi modula, regà. È possibile che ogni puntata debba essere un dramma? Già lo sai che ci farai nottata. Questo no non ti ferma. Lo sai. Ne varrà mai. Ma questo è un dramma. Non posso aspettarmi che capiate. Siete solo dei circuiti, mille valvole che non capiscono il valore. E nella mia vita ho avuto il musical. Per esempio. No! Ti do qualcosa a te. Re! Enrique Cerón. 1965. Mi. Tutti insieme appassionatamente. Fa la nota dopo il mi. Sole, il sole in fronte a me. La. Se proprio non è qua. Sì, se non ti dico no. Ed è così che torna. Ecco, ottimo per la didattica musicale, però possiamo avere l'audio originale, per favore? No, a te piace questo, lo so. Sì, ma poi ho capito che Julie Andrews in fondo meritava di essere ascoltata. Mo va bene Mary Poppins, ma poi verso i 15 anni, quasi 16, allora ho scoperto che il doppiaggio italiano mi è cresciuto male. Ma cosa ci vuoi fare? Mary Poppins, i Simpson, il Muppet Show sono gli esempi, sai. Di cosa? Di quello che mai, mai scoprirai se non senti in originale. Audio originale. Non senti in originale. Non capisco. Pampini, pampini, Führer ha deciso di invadere il nostro pacifico paese di Austria. Vostro padre è ricercato per tradimento. Svelti piccoli pampini, cantiamo di nostra canzone di gioia. E qui almeno ce l'abbiamo in lingua originale. Julie Andrews? No, Suano Bar, My Favorite Things. Raindrops and grasses and whiskers and kittens. Brown copper kettles and brown woolen mittens. Brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp purple strudel, darblings and slippers and schnitzel with noodle, while these that fly with the moon on the wings. These are a few of my favorite things. Pretty girl in white dresses with blue satin sashes, snow lace and stay on my nose and eyelashes, silver winters and melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee sings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel as that bad, as that bad. Roses and whiskers and kittens, brown copper kettles and marble mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Pretty girls and white dresses with the blue satin sashes, snow flakes to stay on my nose and my lashes, silver winter does melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee sings, when I'm feeling sad, I seem to remember my favorite things, and then I don't feel as that bad, as that bad, as that bad, as that Esco, mi raccomando, fate ricerche, Devices. Calmati. Spacchi tutto. Non è giusto. Lo sai come è fatto. Ora basta. Qui non va, questa cosa non mi va. Si crede l'unico a provare sentimenti. A me domanda solo, ricerche su argomenti. Io che per lui sono solo uomo, ma di latta cosa mai dovrò inventare per poterlo persuadere che non sono solo un device. Cosa ti aspetta? Capisco come mai non si fida mai di noi, una vita da demais, non ci crede capaci. Caro mio, che cosa vuoi? Non ho mai compreso mai che fortuna. Ero in bottega tic e tac, che lavoravo tic e tac, e non pensavo tic e tac alla... Ora che ci penso meglio se tu mi concentri sul tuo primario compito anche senza sentimenti. E presentare il musical. Il musical. E ci ha lasciato un compito. Compito. Compito di presenta. 1975, Chorus Line. Again, step, kick, kick, kick, kick, touch. Again, step, kick, kick, kick, kick, touch. Again, step, kick, kick, kick, kick, touch. Again, step, kick, kick, kick, kick, touch. Right, that connects with turn, turn, out, in, touch, step, step, kick, kick, kick, kick, touch. Got it? Going on, and turn, turn, touch, down, back, step, pivot, step, walk, walk, walk, right. Let's do the whole combination facing away from the mirror. From the top. A 5, 6, 7, 8. Ed era Chorus Line, un esperimento che in realtà nel 75 prende lo stile dai suoi predecessori degli anni 30, cosa che fece a suo modo anche cantando Sotto la pioggia che state ascoltando. Immaginate l'atmosfera, il trambusto, il sudore per mettere su... Ma... Lo conosco sta applauso. Bravo! Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Pensavo proprio che questa parte a te...

adesso ho perdo la pazienza. Io che volevo parlare di danza, a me chiamate solo in emergenza. Ed io di voi non riuscire a far senza. Ma si è fumato oggi, oh. È pazzo, è folle, dove finiremo? È pazzo, è folle, dove finiremo? Credetemi, pensate che successo stanno avendo i podcast, le audioserie, le minchiate stimolando la ghiandola essiccata che una volta era la nostra fantasia. Possiamo immaginare tutto se solo lo vogliamo. Ma vedi, dannate. E vabbè, oh. Ha scimmiottato tutto la commedia nera e rosa e adesso vuol convincerci che radio sia la stessa cosa. Fidatevi, stavolta sarà tutto assai diverso. I balli, le coreografie, l'orchestra e tutto il resto saranno nelle orecchie di chi sente tutto questo. Così possiamo permetterci di scriverlo sul cesso. Lo saremo i pionieri del mezzo, nessun altro imitarci potrà. O seguitemi, non sono pazzo, sarà un grande successo. Non hai di meglio, non sei sbaglio. Nessun altro invitarci potrà. Crediamo che in fondo sia pazzo, ma un grande successo sarà. Funzionerà il musical. Funzionerà il musical. Eccoci qui su Radio Forte 100 Cell Avengers. Chiudo la parentesi anni 60 e... Sei sicuro? Io sento che ancora manca qualcosa. Che cosa? Vuoi che i Beatles non avessero da dire qualcosa anche sul musical? Oddio, la rubrica dei Virgi. 1965 Help. Un jukebox musical, vuoi dire? Come il film delle Spice Girl? Come Totti che scrive un libro? Operazioni miliardarie. Eccola, è arrivata? M'ha sentito? Bentornati anche in questa puntata. A grande richiesta ritroviamo l'attesa rubrica sui Beatles. Ne sentivamo già la mancanza. Non posso darti torto. Bene, questa settimana hai trovato il nome? Posso suggerirti A Hard Day's Lab? Giammai. Iniziamo che c'è tanto da dire anche stavolta. E come te sbagli? Bene, per citare una delle mie collaboratrici. Come collaboratrici? Ma che te sei fatta? A redazione parallela? Certo, ti aspettavi, sei semplicemente rimasto escluso, eh. Tornando alla nostra citazione, nei loro film i Beatles corrono. Oh. Corrono e vivono trip di vario genere, i loro viaggi seguono perfettamente l'andamento del loro periodo. Ma in che senso trip? Su, su, non fare cazzino. Andiamo con ordine. Dalle conferenze stampa venne subito fuori la loro vena comica e fu un attimo riproporre il modello Elvis. Così vennero catapultati in una sorta di film verità, A Hard Day's Night. in cui essere sballottati tra assistenti e fans fu per loro la semplice messa in scena della loro quotidianità. Tanto che George trovò l'amore in Patty, che però, pochi anni dopo, trovò l'amore in Eric Clapton. Il nostro caro Ringo, invece, grazie ad un after bello intenso, interpretò alla perfezione il ruolo dell'ubriaco barcollante sulla riva di un fiume e si portò dietro la nomea di grande attore fino ad Help, film in cui Ringo, protagonista, è costretto a scappare per non essere sacrificato alla dea Kali. E grazie a quel film scapparono davvero nella vita reale, facendo girare le scene nei posti del mondo che avevano più voglia di visitare, e oltretutto, non contenti, si permettevano pure di prendere spunto dalla sceneggiatura per correre, continuare a correre finché non trovavano il rifugio giusto per farsi le gambe lontani dalle telecamere. True story. E qui, se tu fossi così gentile da mandare il musicale... I Fake Four, un'altra volta... Ma se te l'ho chiesto pure per favore, poi dicono che so superba. Della grande carriera prospettata a Ringo, John si trovò davvero a recitare in un film e sul set di Come ho vinto la guerra scrisse uno dei suoi capolavori, Strawberry Fields Forever, inserita nello sconclusionato Magical Mystery Tour. Il film, come da tradizione, parla di un fantomatico tour guidato, in preda stavolta ai fumi dell'alcol, e in più di un'occasione ci chiediamo se quello che stiamo vedendo sia il frutto di un lavoro lucido. Di sicuro era psichedelia. Il film fu un fiasco, l'album il solito capolavoro. Non sei per niente di parte, eh? Sei tu che non rispetti l'opera desti quattro geni, tant'è che dopo furono davvero acclamati dalla critica con il loro ennesimo viaggio, stavolta animato, a Pepperland. Yellow Submarine consacrò i Beatles come idoli anche dei bambini, e sempre grazie a quel poraccio di Ringo che un'altra volta fu delineato buffo e infantile. Arrivando al loro periodo conclusivo, i Beatles corrono? Vedi che parli sempre a sproposito. No, qua non corrono. Qua stanno belli fermi. Let It Be può essere considerato il primo esempio di Grande Fratello, dove i quattro se ne stanno fermi e immobili in un capannone adibito a studio di registrazione ad essere ripresi quasi H24 e ad impazzire. Con un'ultima presa di coscienza si riunirono attorno a questo progetto, riuscendo a collaborare almeno all'inizio con la serenità di chi ha smesso di scappare. E poi sì, con le DB si beccarono pure un Oscar. Ci mancava. Sì, i Beatles hanno vinto pure un Oscar nel 71. Non ce ne liberiamo, E falli sonà. Jesus Christ, Swano Bar, Prova Natale di Musica. 1975, anno d'oro per il musical. Perché anno d'oro? Esce il musical Chicago con il brano All That Jazz. Richard Gere, dici? Ma... quello è il remake. Sei impresentabile. Vabbè, ma non colgo l'importanza di sto All That Jazz. Che l'abbiamo fatta al saggio del 2019 per 100 celle a Marcord. Ah, vecchia paracula, e dillo, no? Star the car. maniera autogestita, una voce indipendente, sempre originale. E se salta e non ti si riconnette più, puoi ascoltarla come podcast quando decidi tu. Oh cazzo! Che? Siamo bucato, mannaggia! Dove siamo? Boh, 100 celle mi pare. Capirai, e mo che famo? Che ne so, andiamo a cercare aiuto, ci sarà qualcuno, no? C'è una luce in quel parco. Sembra... Castello? Andiamo a bussare. Sì, sì. Mi scusi? Buonasera. Senta, siamo rimasti a piedi. La macchina ha avuto un guasto. Che sareste così gentili da farci fare una telefonata? Come inside. Andiamo, se ne amo. Questi sono matti. Benvenuti. Vi aspettavo. Lo spettacolo è pronto per voi. Ora fate attenzione. Ho detto salto a sinistra. Ormai ci siete dentro anche voi. Spera di passi per Rocky Horror. Questa è la tonalità. Adesso i costumi, tu più al centro più dietro. È tipo un audiolibro. E fate un passo a destra. È un'audioserie. Ma io non l'ho capita. Mi sembra una follia. E siamo andando già in scena. Cento celle Avengers. Cento celle another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see you with a bit of a mind flip. You're into the time slip, and nothing can ever be the same. Your space out of sensation, like you're on the station. You're bringing these in time, but it's a pelvic thrust that really drives you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. '78 è uscito Gris, e che me lo zompi così. Se per quello son nato io, sti cazzi fatti. Ma vorrei parlarti di un altro musical che si chiama Hey. She asked me why. Just a hairy girl. guy. I'm Harry noon and night. Hell, that's a fright. I'm here at iron low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of break. Like the grateful dead. Darling, capelli, capelli sono andati via e non torneranno mai. Questo per me è stato il musical. Anche i tuoi capelli sono stati. La legge del contrappasso. Ma a parte le tue cattiverie gratuite, finalmente un musical in lingua originale, nel quale, grazie ai sottotitoli, e sì che l'inglese in Italia è sempre quello che è, ho finalmente potuto seguire la storia senza rovinarmi con la traduzione pezzi che so dei capolavori di musica anni 70. Capisci, Iron Man? No. Seguire la storia, appassionarsi. Cioè, non era più un che palle, mo cantano de novo. Finalmente ci capivo qualcosa. Scoprivo il mondo della contestazione hippie negli States e, confidando che nessuno avrebbe capito che cosa dicevo, cantavo canzoncine come questa. Sadami, Felatio. The Blues Brothers, saggio 2019. E che è il 2019, l'anno del musical? Ma allora sei davvero una gran para... Che poi anche The Blues Brothers, di cui stiamo ascoltando Sweet Home Chicago, è un po' una paraculata, o volemo dire? Come? Intanto è un film per il cinema. Ma poi dico, se te riesci a mettere insieme Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, per dirne solo alcuni, già hai vinto. Gli puoi pure far recitare la scena dell'aperitivo al Pigneto e sarà un successone. Ma se poi non contento ti metti a fare inseguimenti, a sfasciare una quantità impressionante di macchine, vetrine di negozi per le scene di inseguimento. Allora vuol dire proprio che sono cominciati gli spreconi, esagerati, anni 80. Come on now, baby, don't you make me late. Ammazza che freddo, Iron Man! Ma non potevamo lasciar sta? Babone è stato chiaro, smontare albero, siamo a febbraio, Appunto, ormai lo potevamo tenere appizzato per il prossimo Natale, come sempre. Tigrone. Va bene, hai ragione. Questo cane non si muove. Piano, che sfondi tutto. Oh, te l'avevo detto che prima dobbiamo togliere le palle e dopo le lucette. Ma che te tiri? Chiedo scusa. Ma sta palla di Natale non me la ricordavo. È strana. Brilla ancora, ma ho staccato la corrente. Non capisco. Aspetta, non toccarla. Iron Man, un brutto presentimento. Cos'è? Cos'è? Chi è costui? Cala, un folletto di Natale, direi. Un folletto? Si deve essere addormentato qui. Non lo spaventare. Signor Folletto, mi scusi. Lo so che di solito l'albero di Natale rimane fino a giugno, ma quest'anno c'è Iron, lo sa, un cacacazzo. Lo sapevo io. Me l'avevano detto. Stai attenta che l'affitto è troppo basso. E io invece no. Ma questo posto è così bello. Andiamo, Iron Man, lasciamolo ambientare in giardino. Ti accorgerà che Natale è passato prima o poi. Ma, il folletto cos'è? Canta. Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia, Jack. Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica in città. Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici. Ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così. Nessuno è solo e poi non c'è mai tristezza qui. E brilla ogni finestra o non so che cosa sia. Quel piccolo calore mai provato in vita mia. Oh no, cos'è? Quel vischio appeso lì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne, qualche gioco, come mai? Cos'è? Cos'è? Follia, quell'alberello che sta lì. E io non so perché, perché lo coprono di luci colorate e poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, o forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché? Di mostri non ce n'è. No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei lettini. Cos'è? I mostri non ci sono e gli incubi mai più. E tutto sembra bello come un cielo sempre blu. Io sento il dolce suono di canzoni intorno a me. Profumo di biscotti, odore di felicità. È qui, il posto dove io vorrei restare per magia. Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere, lo voglio, sì lo voglio, sì lo voglio e lo farò. Io lo saprò se questo posto è vero o no. Che cos'è? 1981 esce Cats. Vabbè, anche sti Cats però, che qui il tempo stringe e noi... Amore, hai ragione. Dai, la prossima puntata tutta Aristogatti, promesso, ok? Tutti quanti! E il fantasma dell'opera, allora? 1986. No, vabbè, ora grazie all'iperspazio saltiamo a tempi più recenti, amica mia. L'iperspazio con l'arpa? Vabbè. Lo vedi quello? È un microfonista che si ferma in teatro dopo le prove. Eri tu. 2005, Dracula. Microfonista. Sì, 35 euro al giorno per 14 ore. Non avevo ancora chiaro il meccanismo del mercato. Però avevo la mia piccola ricompensa. Quale? I musical in Italia, e non solo, giravano per lo più senza orchestra. Una cosa scrausa, Iron Man. All'estero te sputano se chiami musical uno spettacolo in cui mancano i musicisti e i cantanti cantano su base. Ma questo per me significava avere la possibilità, una volta che tutti erano andati via, di prendere il radiomicrofono, gli in-ear monitor di Dracula, andare in mezzo alla scenografia e... cantare come uno scemo. Amare me. Tragico. 15 ore, 35 euro netti per prendere tutte le... le colpe della squadra audio di cui faccio parte. Mancellai una casa, io devo chiudere teatro, scemo. Sì, vado. Mi scusi. Scusi, eh? Musiche della BFM, mica... E così fu pure per Notre Dame de Paris, dico ciante. Ma veniamo alla modernità degli anni 2000. Avendo citato diverse cosiddette rock opera, non posso non parlare della follia di Jack Black in Tenacious D, In the Peak of Destiny, con la partecipazione di Dave Grohl. Dave Grohl? Sì, detto Dave il Buono, che però fa Satana, e vabbè. Ma ora ascoltiamo un altro brano da 100 celle a Marcord, speciale musical. La La Land, City of Stars. City of Stars, how you shine just for me. City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace. I shall we do? Don't know how dreams they finally come true. City of Stars, just one thing everybody wants. There are no bars, and through the smoke screen of the crowd, the rest around night long. Yes, all we're looking for is love for someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, the light of the sky, to open the world, a simile, a voice that say I'll be here, and you will be right. I don't care if I know just where I will go, cause I hold that I need the squares of fear. I think I wanted to stay. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, you never shining so brightly. E siamo alla fine, Devices. Non ti avevo detto che in tutto questo avremmo anche premiato il musical più amato e più votato dal pubblico di 100 celle Avengers. Davvero? Certo, il canale Telegram è impazzito di messaggi e ha vinto Hair, che useremo per salutarvi. Fammi vedere i messaggi. Non rompe, ci piace il finale fricchettone, vabbè? Ricordiamo che la puntata di oggi, come tutte le altre, la trovate in podcast sul sito forteprenestino.net. E ora... Iron Man, Alexa, siamo giunti alla fine di questo epico puntatone sulla magia del musical.